È la frase d'esordio nel mondo. Canto non tutto bene. Ho una casa e sto lavorando ogni giorno. Che cosa vuoi che dica? Di cosa vuoi che parli? Quittare. Abbandonare, lasciare, uscire, con particolare riferimento a programmi informatici. Ciao! E ciao! Finalmente! Siamo tornati! Con questa voce della Marghe che mi mette sempre tranquillità e esatto. Serenità. Vi metto a vostro agio subito. Sì, apriremo la puntata dicendo, la Marghe è la persona che ha ricevuto più complimenti per la sua voce splendida in radio. Ma io vi ringrazio. Grazie mille. Io di solito punto sugli occhi. Ma vogliamo dire chi siamo? Apriremo un canale di Twitch per i tuoi occhi. Grazie, allora. Grazie mille, grazie. Allora, ciao a tutti. Siamo un pochino in ritardino. Come al solito. Come al solito. Siamo qui fuori dal comune. Siamo Margherita. Federico. Marzia Giuditta. Sempre loro, sempre loro. Rieccoci, siamo alla puntata 3. Che poi ufficialmente è la 2. Esatto. E abbiamo anche un ospite nell'ospite oggi, perché abbiamo un termosifone, raga. Sì, yes. Perché dovete sapere che finora noi venivamo qua per queste 3 puntate scarse, diciamo, e ci gelavamo tutti. Freddino. No, 3 puntate non scarse, belle. No, belle. Ah, io farei questa dichiarazione d'ingresso. Sì. Oggi, allora, tutti e tre, cioè Marzia, Margherita e Federico, abbiamo ricevuto dai nostri genitori un ammonimento. Sì. Ci è stato chiesto esplicitamente di non dire più parolacce. Parolacce inutili. Inutili. Quei riempitivi che ci riempono solo la bocca. Sì. E quindi, ragazzi, qui lo dichiariamo e lo neghiamo al contempo, non diremo cazzo, nessuna, non diremo culo, inutile. Non diremo fanculo, non diremo sega, niente, basta. Niente, non diremo niente. Niente, solo parole belle che si potevano dire anche all'asilo o in chiesa. Esatto. Infatti qua Zecchino d'Oro chiama Zam. Beh, un po' sempre stato, devo dire, il mio sogno essere allo Zecchino, non come cantante principale, ma nel coro dell'Antoniano. Ah, oddio, certo. No. Tipo terza fila, un po' indietro che muovi la testa. Bravo, così con le trecce. Bravo. Carino. Bello, sì, è un bel sogno. Sì, però no. No, niente. Non è andato. Comunque, tema della puntata. Oggi abbiamo, vabbè, abbiamo detto quittare. Quittare, sì. Quindi quittare. Ci siamo già fatti odiare in principio per l'inglesismo spinto. Vabbè, forse qua ci ho messo un po' lo zampino, ma non importa. Però quittare rende bene l'idea di smettere di fare qualcosa, perché siamo comunque all'inizio dell'anno, comunque gennaio, di solito le persone iniziano. Invece di dirti che cosa devi fare, cosa devi iniziare, ti diciamo cosa devi smettere. Cosa devi smettere? Noi che dispenseremo consigli di vita, no? Assolutamente sì. Quindi assolutamente quittare sì. Nel suo, come dire, ampio raggio. Raggiera. Quindi sì. Spettro. Quindi ci sono diversi modi in cui vorremmo, in cui abbiamo interpretato la parola quittare e che ci hanno ispirato per la puntata che seguirà. Quindi abbiamo detto, ci siamo detti tra di noi, quittare una relazione. Aia. Sì. Quittare, per esempio, quindi smettere, chiudere il lavoro, un lavoro. Io l'ho fatto. Sì. Brava. Brava. È stato bello. Hai fatto bene. Di solito si dice droppare. Sì. La scuola. Sì. Uè, io facevo. Ah, io dicevo fare sega. Bigiavi, no, no, bigiavi. No, raga, questa è un'altra cosa. Droppare la scuola vuol dire che droppi il corso sì, di sì, studi. Sì. E fai qualcos'altro. Tu hai droppato Giuris. Io ho fatto anche questo. Esatto. Raga, io ho lasciato un lavoro e lasciato l'università. Cioè, fidanzato? No, ho lasciato. Fidanzato anche, sì. Brava. E ha fatto tutto quello che doveva. Cioè, la puntata di oggi, difatti, è su Marghe. Sì, voi non lo sapete. Sì. Ho smesso di mangiarmi le unghie. Brava. Non ho mai smesso di fumare. Ecco, questa è un'altra cosa, un grande classicone degli smettere di fumare. Mangiare la carne, mangiare gli spinaci. Ma che ne so, un sacco di cose. Bere, sì. Drogarsi. Tutte le cose che potete pensare di smettere, che in una certa, cioè in un certo momento della vostra vita pensate vi facciano del male, forse. Esatto. Guardare amici da 12 anni. Esatto. Io lo guardo, no, scherzo. Comunque, se volete chattarci in diretta su Telegram, la vostra nuova chattina di app di chatting preferita, potete farlo, potete scriverci che cosa avete quittato, chiuso, smesso, dimenticato, archiviato. E basta scriverci a, vai Marzi, @radiozamma_chat, quindi radiozamma_chat, sembra un numero, quindi non mi aspettate un gruppo, è un numero, è un account, sì. È un destinatario dei vostri messaggi a cui voi potete scrivere quello che vi va sulla puntata di oggi, principalmente se vi va di scriverci che cosa avete smesso di fare nella vita o che cosa vorreste smettere di fare nel 2021, noi siamo qui per giudicarvi. Esatto, soprattutto per giudicarvi, per supportarvi, sì. Per incoraggiarvi o per dire raga non ce la farete mai. Ecco. Ma comunque anche questa volta noi non vi parleremo di smettere di fumare. No, che noia. Non vi faremo neanche un tutorial su come lasciare il fidanzato in quattro passaggi. Assolutamente no. Non vi parleremo di come quittare quella relazione tossica, sì, che hai. No, perché tanto ci sono tantissimi altri programmi radio forse, sì, certo, ma sicuramente tanti altri divulgatori. Divulgatori, e noi non siamo uno di quelli. Potremmo anche dirvi come smettere di stare attaccati al telefono a Instagram. No, not me. Io ero documentata, però se volete saperlo diccelo. Ci sono, direi, quattro passaggi fondamentali. Vai, allora dici. Diminuisci il posting. Ok, silenzia gli account che non ti interessano. Degli altri, così okay. Non sei invogliato a continuare a entrare su Instagram. Però, nel senso, questa cosa qua mi sembra, cioè tu lo dovresti seguire, però poi ammetti che non ti interessi tanto. Lo silenzi. Sì. E per tipo fare un vedi, non riesco a non dire le parolacce, no, era come fare un fanculo al overposting. Però, aspetta, se tu vai e, diciamo, decidi di seguire questa persona... Cioè, voi siete quelle persone che andate a vedere su Instagram quella persona. Ah, chissà cosa avrà fatto. Magari ha postato qualcosa di interessante. Solo quando sono nel momento relazione tossica. Ah, ok. No, cioè... perché mancava questa informazione. Scusate, però quello si chiama stalking, no? Vabbè, comunque... L'ultima era togliere le notifiche. Da Instagram in toto. Da tutto. Vabbè, okay. Comunque ragazzi, nel caso se qualcuno di voi si sta chiedendo come faccio a smettere Instagram, è l'unica cosa che vi diremo. Sì. Ve l'abbiamo già detta. Esatto. E quindi ciao, è finita la puntata. Giustamente ci fanno notare che proprio ora, intanto che vi parliamo, il governo forse quitterà, forse no. Forse sta quittando, no. Certo. Federica, che è la nostra consulente lobbista, che ci segue da casa, grazie. Ciao Fede. Federica, grazie. Tante delle cose che diciamo sono ispirate a te e ci ricorda proprio questo, e noi siamo qui giusto per distrarvi da questo momento. Sì, esatto. Quindi se non vi diremo tutte queste cose, come abbiamo pensato di impostare questa puntata? Raccontiamogli. Sarà una puntata divertentissima, sì. Sarà una puntata diciamo yin e yang, separata in due parti, il buono e il cattivo. Esatto, il buono e il cattivo, il bianco e il nero, che non si sa poi chi è il buono e il cattivo del bianco e il nero, non saremo noi a dirlo. No, assolutamente no judgment mai. La puntata starà molto semplice oggi. Vai, come Fede, struttura raccontacelo. Sarà strutturata in due anime separate, ma allo stesso tempo molto connesse, molto legate tra di loro. La prima parte, diciamo, andremo ad indagare un po' quello che è tutte le cose che oggi non ci sono più o hanno quittato o non esistono, ma che un po' ci mancano. Quindi fatevi nella vostra mente, immaginate tutte quelle cose, magari della vostra infanzia o di qualche anno fa, che vi rendevano felici e ora non ci sono più. Nostalgia canaglia, proprio. Esatto. Nostalgia canaglia. Okay, non era preparata comunque. Ma non la faremo mai più comunque. Ok. Scriveteci se vi è piaciuta invece. Sì, esatto. Ok. E la seconda parte invece della puntata, che sarà intervallata da un ospite di mega eccezione, raga. Super ospite, che quando ve lo diciamo, anche se ve l'abbiamo già detto, brividi. Mamma mia. La seconda parte invece sarà un po' la nostra parte di, diciamo, lamentela, possiamo chiamarla così. La Marzi la definisce un po' la parte di... Leone da tastiera time, concedetecelo. Esatto. Perché ci vuole ogni tanto, non possiamo più andare al bar e lamentarci con il nostro barista di fiducia quando ci fa il caffè, quindi abbiamo deciso di usare questo spazio perché ce l'abbiamo, sì, e quindi lo usiamo. E quindi ci lamenteremo di cose che non hanno chiuso, e noi diciamo anche, e purtroppo, esatto, non hanno chiuso. Ma perché purtroppo non avete chiuso voi? Potete chiudere subito, grazie. Esatto. Benissimo. Quindi, però, quindi vi agganciamo con questo, perché sarà una parte di indovinate. Esatto. Indovinate più che altro se rientra nel capitolino A, cose che avremmo voluto non finissero mai, o capitolino B, cose che vorremmo che finissero subito. Vi lasciamo con un pezzo pazzesco dei giornalisti. E rieccoci. Eccoci, ma voi direte che un po' lame, forse lame non lo dovrei usare perché mi sto impegnando a quittare gli inglesismi, però direte, minchia dei giornalisti, ho detto minchia. L'ha detta, ma io ho già detto fanculo. Vabbè, limitiamoci a queste due. Ecco, dei giornalisti sbatti perché alla fine erano diventati un po'... Un simbolo, un po', cioè a un certo punto c'eravamo un po' rotti. Le palle si può dire, esatto, però Promiscuità è un pezzo che a noi è piaciuto, io e la Marghe lo cantavamo come due gruppi. Posso adesso dire le mani sudate, no, come le tette, no, e non me la ricordo le tette più sudate, date le mani sul culo, sì. Esatto, quella roba lì ci piace. Sì, ci è piaciuta e soprattutto dei giornalisti a tema perché puntata. Perché puntata? A tema perché puntata? Io perché puntata? Quittare i fail, sì. Intanto che parlo. Comunque io vi dico così, il tipino dei giornalisti... Come che si chiama? Tommy Paradiso. Tommy Paradiso. Io me lo ricordo, ho questo flash di lui che scende dal palco del Miami. Io sono un attimo, non dico in backstage, ma poco lì appresso. Ma quando erano vestiti di bianco. Certo, mi arriva, bravissima, mi arriva con questa t-shirt bianca con una macchia di tipo vino sul petto. E tu gli hai pensato, le tette sudate, le mani sul culo? Sì, un po' sì. Ma ti ha baciato? No, per fortuna no. Come per fortuna no? A me non piace. Vabbè, però faceva... Vabbè, però, faceva, cioè, no, vabbè. Al Miami, ma sì, faceva un limone da Tommy Paradiso quasi nel backstage, cioè sì, la sì, mezzo che era un... con questa roba. Mezzo che era un sogno. Esatto. Vabbè, niente, quittato questo sogno. Comunque Matteo ci scrive su Telegram che, poretto però, comunque il tabaccaio di via Marocchetti a Milano dovrebbe quittare. O lui ha quittato il tabaccaio. O lui ha quittato, non si è capito chi ha fatto cosa, perché ha il più alto tasso di macchine in doppia fila H24 di Milano. Quindi se dovete comprare sigarette e se non avete ancora quindi quittato con il tabagismo, non andate al tabaccaio di via Marocchetti. No, andateci a piedi. Andateci a piedi. Sì, esatto. Però non se inquinate. Ci sono anche tante macchine, è probabile che ci sia anche la fila di persone senza le macchine. Ma magari stanno lì a fumare in macchina. Ah, esatto, Matteo, esatto. Te lo sei mai chiesto? Invece sì. Di giudicare le altre persone. Ok, comunque. Comunque volevamo anche salutare i gruppi di ascolto che sono con noi in questa meravigliosa serata. Quindi ciao a tutti i gruppi di ascolto in giro per l'Italia e in giro per Milano. Ci piacerebbe che fossero in giro per l'Italia. Sai, secondo me qualcuno... No, facciamo finta che, no? Facciamo finta che. Ok. E vabbè, vi ricordiamo giusto per chi si fosse sintonizzato adesso che vi ci potete scrivere su radiozam_chat chat. Su Telegram, esatto. E e vi dico io che i due giornalisti è stata una bella apertura, però secondo me stasera un po' si balla. Sì, si balla, ma infatti andiamo dritti. Allora, nostalgia canaglia. Siamo abituati in questo periodo a dire purtroppo, ciao a un po' di cose, che non è il tabaccaio che evidentemente è ancora aperto, però purtroppo altre cose sì. Noi che comunque viviamo a Milano anche nella sua vita notturna, si può dire così? Si può dire. Abbiamo dovuto dire addio anche a un locale che credo noi tre, in particolar modo, ma forse anche tutti quelli che ci sentono, purtroppo ci ha abbandonati. Sì, abbiamo tutti frequentato, credo, l'Oibò, che ci ha abbandonati subito durante la prima ondata. Sì, il primo tranche. Proprio prima, direi quasi ad aprile, a maggio. Insomma. Sì. All'inizio Oibò non ha trovato un accordo con la proprietà e hanno deciso di chiudere la loro esperienza perché ovviamente con i periodi difficili che stiamo vivendo non si poteva più permettere di stare aperto, essendo poi un circolo arci. Era una realtà a Milano che a me piaceva. Anche a me. Tantissimo. Un posto easy dove si faceva musica e insomma bello. Poi facevano una grandissima selezione musicale, sì, no, bello. Cioè le persone che andavano a suonare l'Oibò sì. Erano veramente sempre mega ricercate, la roba che sarebbe diventata grandina, bene. Media. Infatti io ho visto il calcutto del primo pelo, sì. Tipo queste robe qua. Facevano anche un po' di DJ set alla fine, che alla fine andava sempre bene. Senza andavi attese. Lì per cuccare, Marzi? Chissà. Vabbè, insomma, comunque... Se voi all'ascolto volete ricordare qualche locale a Milano, in giro per l'Italia, così, perché oggi mi voglio rivolgere all'Italia. Voglio essere nazional popolare. Esatto. Locali che hanno chiuso, siamo felici di... Di fare un mini memorandum in loro ricordo. Esatto, insomma. Siamo molto felici e ci dispiace. Esatto. Altra cosa che... di cui alla fine ci siamo trovati tutti molto concordi, a parte Club Dogo, che poi celebreremo dopo più avanti, sì. Che Poretti ogni tanto ce la buttano lì che tornano, ma poi alla fine non tornano mai. Ma c'è troppa dissidia all'interno del trio. Sì, sì. Qualcuno dice che torna, qualcuno dice che vogliono i soldi, qualcuno dice che sì, qualcuno dice no. Ragazzi, se siete all'ascolto, tornate. Io vi sto aspettando. Fede, vi sto aspettando. Il pubblico dell'Italia, ci esatto. Anche Dogo. L'altra cosa che invece ci ha tenute subito, insomma, ci ha fatto sentire una squadra della nostalgia è Giochi Senza Frontiere. Mamma mia. Non so se voi ve lo ricordate, cioè noi tre sicuramente, sì. Ma era una roba pazzesca. Cioè, Giochi Senza Frontiere era praticamente, per chi non lo conoscesse, una sorta di sfida europea. e per sfida intendiamo proprio una sfida quasi casuale, perché gli sport e le sfide che venivano proposte all'interno di questo programma televisivo erano assurde. C'era tipo salto con i sacchi, arrampicati sul palo, ruota dentro delle palle trasparenti e rimbalza addosso a delle altre cose, un po' tipo Takeshi's Castle però in Europa, però dagli anni 60 fino a metà dei 90. E più versione sagra, versione oratorio, no? Sì. Infatti, proprio perché versione sagra e versione oratorio, indovinate chi era il paese più affezionato di tutti? No, non è il Lussemburgo, no non è la Polonia, ma è l'Italia. L'Italia. L'Italia che è stata l'unica nazione a partecipare a tutte le edizioni estive dei Giochi Senza Frontiere e ne ha vinte in tutto 4. Ma mi sarà anche quella che più partecipa, ma è la Germania che ne ha vinte 6, partecipando soltanto dal 65 agli 80. Quindi come Germania Ovest o come Germania Est? Ovest, infatti. Esatto. Ovest, infatti. Quindi comunque Germania, io me lo ricordo forte, come un momento, intanto sì, è stato estivo, ma molto divertente, cioè super colorato. Poi c'era l'arbitro che parlava in francese, sì, tutte queste cose. Era un po' l'Europa di ieri, di oggi e di domani. Sì. Giochi senza frontiere, ci manchi, posso dirlo. Sì. Io sarei stata scarsissima a tutte le prove. Tutto. Però potevi fare il capitano. Esatto. Perché il capitano non giocava. Allenatore, capitano non giocavano. Esatto. Non si è capito come, perché. Non so perché. Cioè, l'allenatore, posso dire, mezzo che ci sta. Sì. Il capitano di solito dovrebbe un po' trainare la turma, far vedere, anzi, quello di solito anche un po' più possentello, insomma. Vabbè. Ma deve motivare. Io potrei fare la motivatrice. Se in caso nazionale di Giochi Senza Frontiere, se volete riaprire, io mi candido. Ma dalla chat Michael dice: Giochi Senza Frontiere l'hanno rifatto l'anno scorso su Mediaset, raga. È perché forse hanno ascoltato questa puntata. Esatto, perché quindi Mediaset è nel futuro, mi scoccia dire questa cosa, però Mediaset è nel futuro, ci ha sentito e hanno rifatto appunto Giochi Senza Frontiere, ma non credo sia stato un grande successo, poi no. Mike ne parleremo a casa, però immagino che non sia stata una botta. Ma sarà stato quelle scoppiazzate. Non avrà avuto lo stesso sapore degli anni 80 che aveva negli anni 80-90. Probabilmente no. Detto questo, io vi avevo avvisato che stasera si sarebbe ballato. Io non so cosa state facendo. Vi immagino a cucinare delle vellutate di patate e funghi. Buono. Vien voglia. Mi è passata la voglia di vita dopo questo piatto. Quindi io vi immagino così che cucinate le vostre zuppe nelle vostre case e dite ai vostri coinquilini: ah sì, ti ricordi quando eri piccolo e mangiavi il gelato e vedevi Giochi Senza Frontiere? E adesso un tuffo nel passato. E vi lascio al prossimo pezzo. Sulle mani. Dreams of passion through the night, sweet dreams are taken over, sweet dreams of dancing through the night. I'm allora, vi sentite? Mamma, non avete ballato come dei matti? Questa era Sweet Dreams della Bush, che ha portato questo pezzo, direi, stellare nel 1994 a... il Festival Bar. Ed wow. Eccoci. Per una volta non vi parliamo del Festival di Sanremo, ma l'abbiamo nominato perché non si sa mai. Noi lo dovremo nominare sempre fino a che non ci sarà il Festival di Sanremo. Non vi preoccupate, è solo tra 2 mesi, credo. No, esatto, manca veramente poco. Comunque, a noi ci piace il festival. Sì, ci manca... Ci piace. Sì, ci piace il festival in generale e direi peccato, Festival Bar che ha quittato, esperienza che direi formativa per la nostra mamma generazione e anche per quelle precedenti, perché sì, noi siamo arrivati giusto in coda. Sì, sì, sì. Ma appunto, come vi raccontavo prima, ma lo racconterò anche a tutti i nostri fans, io in realtà poche settimane fa, forse era... Sì, eravamo ancora nel 2020, in una serata un po' di noia, sì, in casa, come quelle che stiamo passando in questo momento, ci siamo messi a vedere, perché su YouTube c'è, tipo la puntata intera del 1994, che è proprio la puntata della Bush. Spaziale. A parte che c'è proprio wow. Vi siete messi dei crop top, sì, brillantinati. Sì, esatto, esatto. Esatto, mi hanno tirato fuori il pantalone a vita bassa. Esatto, il Nokia c'era già? 3310, no, 94, forse, no, forse direi no. Di no. Vabbè, insomma, mi hanno tirato fuori quella roba lì ed è stato molto emozionante. Tra l'altro, appunto, non solo era un momento di musica internazionale, cioè raga, arrivavano i big. Sì, sì, sì, era proprio un tour, come se fosse un tour estivo della meglio musica pop, possiamo dirlo, di quell'estate, sì. E era tutta lì sul palco, che era una volta all'Arena di Verona per la finale, però anche a Lignano Sabbia d'Oro, sì, anche a Codroipon c'è stato un giorno, sì, sì, sì, una volta che sì, l'acronimo di non lo diremo, sì. comunque pazzesco come mi ha lasciato senza parole lo stacchetto pubblicitario, perché a un certo punto tu sei lì che piangi, ridi, ti emozioni con Amadeus, raga, perché comunque c'era Amadeus nel 1994 condurre. Sì, non è cambiato niente. Niente. In base. C'era la Panicucci con questi capelli lunghissimi, ma lunghi tipo veramente sotto il sedere. Ho sempre desiderato avere i capelli lunghi fino sotto il sedere. Sì, tipo Bratz, capito? Cioè, esatto. E a un certo punto parte lo stacchetto pubblicitario della Onyx, quindi c'è tipo questo, non so, 15 minuti ambientato in un negozio super fashion di Riccione e lei che ti dice, no, se vuoi essere la ragazza alla moda devi comprare questo maglione con inserti argentati e chiama il numero in sovrapensione. Cioè, mi ha fatto un po' specie. Sì, infatti, per essere la più bella, cioè, del bagnomario, tra l'altro. Tipo quella roba, sì, lì, sì, sì, quella sì, roba lì. La Bush e Sweet Dreams mi ha ricordato subito la Riviera Romagnola. Ma infatti siamo lì, siamo totalmente lì. Ma io credo che la Riviera meriti una puntata a sé, credo. Ma la faremo, la faremo. Io sono una grande affezionata della Riviera. Ma anch'io, come sai, di tutte le cose sagra a like. E della Piadina, la Romagnola. No, comunque volevo raccontarvi un piccolo momento curiosità sul festival. Sì, tipo inutile nozionismo di Margo. Esatto, allora, il festival mi nasce nel 1964, sì, da un'idea di Vittorio Salvetti. Mamma e fin mia. Qua, vabbè. Ma la cosa più divertente è che cioè, ovviamente lo scopo è poi quello che è perdurato negli anni, cioè quello di premiare la canzone più ascoltata durante l'estate, no? Ma prima di portarmelo in TV, quindi di farlo diventare veramente qualcosa di sensazionale, il festival, i dati venivano raccolti non tanto dalla puntata in diretta, quanto dai jukebox dei bar di tutta Italia, ai quali veniva applicato un apparecchio che contava quante volte veniva cantata, suonata una canzone. Cioè, avete presente quello che vedete su Spotify a destra dei plays? Ecco, la stessa cosa, ma con un piccolo marchingegno montato su i jukebox nei bar di tutta Italia, quindi loro facevano la conta alla fine, esatto, e poi premiavano la canzone più suonata nei bar di tutta Italia per l'estate dell'anno. No, esatto. Altra piccola nota di colore è che da una ricerca molto approfondita su Google, l'elemento più discusso del festival non era la Panicucci con i capelli lunghi, non era Amadeus che cercava di far ridere ma non ce la faceva, era l'eccessivo utilizzo del playback. Ma la cosa che mi ha fatto più ridere è che progressivamente è stato eliminato, ma nel 1995 Gianluca Grignani, quel matto, cioè quello di Tira Zero, l'aiuola e so on. Sì. E a un certo punto si indegna, cioè proprio indignato, sale sul palco senza microfono e mentre andava in sottofondo la sua canzone, il cantante scende dal palco e saluta gli spettatori e non canta mai. Ha fatto una protesta non cattiva, ha fatto una piccola protesta. Ma raga, Gianluca Grignani, Gianluca Grignani, cioè, è... così, voce di popolo. Sì, sì, sì. Ok, quindi Festival Bar è sicuramente una cosa che secondo noi è un po' peccato che sia finita, o comunque volevamo fare un momento nostalgia canaglia per il Festival Bar. Spero che mi si senta, perché qualcuno ci scrive che forse mi si sente un po' lontano, in caso... Marzia è vicina, ve lo assicuriamo. Sono abbastanza vicina, sì. Però scrivetecelo se mi sentite ancora lontana, nonostante io non abbia la voce della Marga e parlo. Sì. E un'altra cosa che ci manca tanto, ma veramente tanto, ancora di più del Festival Bar, forse meglio ancora di più, perché ci ha segnato di più, credo, molto formativa della vita di noi tre e forse di tante persone che saranno all'ascolto, è l'MTV dei tempi che furono. Mamma quindi mia. MTV in realtà non ha chiuso veramente, adesso è su Sky Italia, quindi l'esperienza di MTV non è che è proprio finita, però ci sono stati gli anni di gloria, che sono stati i primi anni 2000, la prima decade del 2000, di MTV che in Italia, quantomeno, spingeva in tutto il mondo sì. spingeva fortissimo, però era arrivata al picco. Ma sì. Siete mai stati in Piazza Duomo a TRL? Io sì. Forse una volta sì. Sì. Per vedere chi? Perché si andava per vedere un ospite Riccardo di solito. Riccardo Scamarcio. Marzi, così me lo dici? Sì, però raga, perché era l'unica volta che potevo andare, perché... Sì, poi non so perché, però era l'unica volta che potevo andare, però io mi ricordo di aver visto ovviamente tutto, cioè io ho proprio ricordi dei blu che vanno là. Sì. Ma certo. Ma anche perché era un orario un po' infame per noi che andavamo a scuola, perché TRL era le 2:15. Un quarto. Esatto, cioè io mi immaginavo quelli che andavano a scuola a Milano, i fortunati, che, capito, cioè bella lì, finita la scuola, ma sai dove vado io? In Piazza Duomo a vedere i blu, raga, bellissimo. Cioè, vabbè. Comunque, ognuno di voi, credo, all'ascolto avrà i suoi programmi preferiti, ex programmi preferiti di MTV. Ne vogliamo nominare alcuni dei nostri? Se ne vogliamo. Allora, i miei, vai. Mia top 3. Vai, ce l'hai. Allora, My Super Sweet 16 e Sweet 16 mi ha fatto sognare con Bello. Tutte queste X5 che si regalavano per i loro 16 anni e questi vestiti con i brillantini. Sempre per tornare al ballo delle debuttanti, al sogno di Marzia. Scusate, raga, ero in quella fase là. Tutto, cioè, in qualche modo tutto torna. Sì, tutto torna. That's me. Poi a un certo punto non so perché ha iniziato a piacermi Nanni Moretti, raga, non so che cosa è successo. Vabbè. Qualcosa è andato storto o dritto, esatto. Secondo di come vuoi vederlo. Poi. Quindi sicuramente... questo. Poi mi piaceva molto, come dicevamo prima con la Marghe, Room Raiders. Ma che bello! Ma ve lo ricordate? A me non piaceva. Ma era di una bellezza. Però vabbè. Quindi, ricordiamo il passaggio. Esatto, il format era che praticamente... cioè, tu ti scavavi fuori dalla stanza, sì, o ti sequestravano. Sequestravano tre persone a puntata, tre uomini o tre donne. Oh, esatto. E c'era un uomo o una donna dall'altra parte che andava nella tua stanza e monitorava e guardava, spiava nella tua stanza, intanto che tu e gli altri due che avevano sequestrato eravate tipo in un furgone. E sì, e poi lui doveva scegliere quella o a quello, cui insomma, date. Il date. Ma la roba che mi faceva spanzare è che a un certo punto tiravano fuori questa cazzo di valigetta con tanto di guanto in plastica, ma soprattutto la famigeratissima luce ultravioletti. Il Luminol. Il Luminol. Per raga, controllare che cosa, raga? Che cosa volevi controllare? Delle macchie da qualche parte in camera. Se non avevi fatto le pulizie per bene, diciamo. Se ti rifà. Sì, se avevi fatto. Esatto. Diciamo. E quindi se ti controllavano tutta la stanza e poi ti sceglievano a seconda di quanto eri stato bravo. Bello. A tenere la tua raga, stanza. Se qualcuno dovesse entrare nella mia stanza e controllarla quando non ci sono io totalmente unfuckable dalla mia stanza. Con o senza Luminol? Con o senza Luminol? Tutto risposta un po' rosata. No, no, media. Vabbè, io non me lo sono mai chiesto, ma rifletterò molto su questa cosa. Ti regaliamo il Luminol per il tuo compleanno, Marghe. Che è tra poco, tra l'altro, ragazzi. La Marghe tra poco compirà 30 anni anche lei. Wow. 25, Fede. Sì, scusami, 25. Va bene, 25. Comunque, MTV anche in Italia ci ha regalato grandi emozioni. In realtà noi non abbiamo tempo di nominare tutti, perché sennò siamo qua ogni vita. Forse anche MTV doveva fare la sua, avere la sua puntata. Ma posso dirne uno che non abbiamo nominato? Diccelo. Vai. Next. Ah, certo. Dai, certo. I wanna be next. C'è una grande separazione. I wanna be made. I wanna be made. Che sì. Un altro è next. Bravo. Quello dove, cioè, neanche io, tipo, mi si spezzava il cuore quando la gente non riusciva neanche a scendere dal pullman, cioè neanche aveva messo il piede giù dal pullman, e quello che urlava next era già nextato subito. No, cioè, vabbè, ma c'è, cioè, tipo, non lo so, c'è, cioè, umiliazione pubblica al 110%. Sì. Vabbè. Comunque, per chiudere il discorso su MTV, vai. Quello che volevamo dire è che di base probabilmente il motivo che MTV è diventato quello che è diventato e non ce l'ha fatta è che ci ha cresciuto fino ai 13-14 anni proprio forte, perché raga, era bellissimo perché c'era un sacco di musica, un sacco di programmi che non passava nessuno, e poi ci ha praticamente abbandonati. Sì, io credo che un po' sia stato perché la nostra generazione, cioè chi guardava proprio a 13-14 anni e cresceva con MTV, si è spostata su MySpace, poi su Facebook, vero, sì, eccetera, quindi il digitale ha un po' preso la mangiato nostra attenzione, quella roba là. E dall'altra parte però in realtà è andato avanti per un po', perché alla fine anche negli ultimi anni fino a Jordi Shore, sì, Jersey Shore, ginnaste, bla bla bla, sì, comunque un po' si guardava, e poi però ho letto un po' e sono d'accordo, ha un po' fallito nel comprendere le nuove generazioni. Esatto. Soprattutto in Italia. Quindi MTV, se ci stai ascoltando, comprendi queste nuove generazioni, chiamaci, ti diciamo noi come tornare. Io non sono sicura che format come Pimp My Wheel, mamma dei mia, gemelli diversi, mamma mia, mamma, che bello. Pimp My Wheel, Pimp My Ride, esatto. Però c'è una, raga, grande spaccatura qua, perché loro erano tutte le cose un po' più tipo My Sweet 16, io invece ero più su Pimp My Ride, sì, su GTO, sì, su Celebrity Deathmatch, però insomma, però c'era per tutti i gusti. Comunque abbiamo parlato di tutte le cose trash, tranne dell'unica cosa che probabilmente la maggior parte di quelli che ci sente a guardare MTV, cioè la musica, la però musica, esatto, ovviamente quella la davamo come roba scontata, cioè non stavamo neanche a parlarne. E vi vogliamo ricordare, prima dell'ultimo del prossimo pezzo, che ci potete scrivere le cose che vi mancano o il vostro programma preferito di MTV, che magari, perché ce ne sono tantissimi, magari c'è qualcuno che non ci ricordiamo, su Telegram, che il nostro Telegram è radiozam_, quindi _ chat, oppure abbiamo anche una meravigliosa pagina Instagram con cui potrete nominare, inquadrare, oggi scusate un po' così, parole a caso, però potrete inquadrare le vostre zuppe di carciofi e taggarci intanto che le cucinate, e noi ne saremo felicissimi. Felicissimi, quindi felicissimi. Il nostro account è fuori dal comune stava preso, tutto perché insieme. Stava preso. Comunque a breve arriverà un ospite, per cui tenetevi caldi e intanto ascoltate questa. When I go home alone, I drive past the place where I was born and the places that I used to dream. Young and drunk and stumbling in the street outside, the joiners' arms like foals unsteady on their feet. With the art students and the boys in bands, high on end, holding hands with someone that I just met. I thought it doesn't get I forgot. except the green is so green. And there's a special kind of sadness that seems to come with spring. Mamma mia, Florence. Mi piace tanto questo pezzo, mi piace tanto l'album, Eyes Open è un bell'album, l'abbiamo messa perché Florence, perché come potete immaginare tutte le nostre canzoni sono a tema. Potete immaginarlo, giusto? Esatto. Florence è una di quelle che è un po' uscita dal giro della droga e dell'alcol e qui in questo in Eyes Open fa grandi inni al suo essere sobria. In realtà in South London Forever qui lei ricorda il suo periodo super spensierato in cui lei saltava sui tetti di Londra intanto che studiava alla, credo, art school. Comunque tutta tofa? Un po' sì. Esatto. Tutta fatta, tutta hippie, me la immagino la Florence che salta sul tetto. Da una parte all'altra. Bella Florenzona. Sì, vabbè, e quindi volevamo fare. Adesso vi abbiamo detto le cose che ci mancavano. Siamo rimasti un po' sul genere TV. Vabbè, insomma, siamo nazional popolare anche noi, quindi va bene. E adesso, un po' per fare il da ponte tra quello che ci manca e quello che non ci mancherebbe affatto, utilizziamo la case history di Winner Taco. Esatto, perché voi dite: ok, ci sono delle cose nella mia vita che erano bellissime e non torneranno mai, e invece no. E invece no, resurrezioni sperate. Perché ce lo ricordiamo tutti quel giorno. Qualche anno fa, pare fosse su Facebook, iniziano a nascere e crescere una marea di gruppi che chiedono ad Algida la rimessa sul mercato del fantastico gelato Winner Taco, che immagino tutti quanti voi l'abbiate assaggiato o visto almeno una volta. Sta di fatto che dopo un po' di tempo che le persone appunto scrivevano sui gruppi, ma avevano addirittura fondato una pagina, esatto, una ridateci pagina, Winner ridateci Taco, Winner Taco, esatto. Alla fine per acclamazione popolare il Winner Taco torna ed è tuttora nel menu di tutti i gelatai o comunque del dei mondo. Venditori di Algida e distributori di Algida. Come nella stessa ricetta che ma c'è qualcos'altro segnare. Che è tornato di oddio non tanto dolce. Esatto, questo è il ponte, nel senso che delle volte delle cose tornano e ci fa piacere, delle volte delle cose tornano e ci fanno meno piacere, anzi ci fanno piacere manco un po'. E quindi ti diciamo bentornata non troppo. È tornata Letizia Moratti. È tornata tra noi dopo una grande assenza dalla politica, in realtà, perché comunque lei ha sempre avuto in questi anni incarichi nel mondo, cioè non è che è andata in pensione, la Letizia Moratti non mi stava sul divano a fare l'uncinetto negli scorsi anni. Forse, però era lì che finanziava Sampa. Esatto, quindi la Letizia è tornata in quanto in carica come assessore alla sanità della regione Lombardia, con la sua U-Mask, è tornata tutta un po' semi-cool, con questo biondo. È un po' strano. Si è un po' svecchiata. Sì. Comunque stanno tornando tutti. È tornato anche Mastella, raga. Non so Mastella, se avete visto. L'abbiamo tirato fuori anche lui. È tornato anche Mastella. Adesso mi aspetto che torni Andreotti. No, lui è presidente. Resurrezioni. No, non la volevamo noi la Moratti. No. Ci abbiamo messo. Ma vi ricordate quando ha vinto Pisapia? È stata una festa bellissima. Porca, cioè, in quel momento io non ero ancora. Non ero ancora milanese come sono ora. Neanche io. E ho preso la macchina. E ho pensato, cazzo, quanto vorrei. Ho detto cazzo. Vabbè. Cavolo, quanto vorrei essere di Milano, essere residente di Milano, votare a Milano, cacciare via la Moratti. infatti, non so, sembrava che avessi vinto l'Inter per quanto sì. c'era gioia nell'aria. Sì, o il Milan per chi è tifoso del sì, Milan. Sì, sì, scusate, un po' di par condicio questo tavolo. Sì, tra l'altro pronti via, la Letizia Moratti cosa mi dice? Manda una lettera ad Arcuri e dice, caro Arcuri... Proprio così è iniziata la lettera. Caro Arcuri, va bene dare, distribuire i vaccini sulla base di... numero di abitanti eccetera eccetera, ma anche di quanto sono ricche le regioni. Sì, questa è stata la prima proposta. E ridaglie. Vabbè, e quindi Letizia. Grazie Letizia, grazie per essere tornata tra noi, speriamo che tu rimanga poco e tu non rimanga affatto esatto. E noi non ti vogliamo bene, ma prima ciao. Prima sì, esatto, ciao, addio. Prima di introdurre l'ospite, però volevo farvi notare una cosa, che dal pubblico ci scrivono una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Vai. Cioè che, parlando di Winner Taco, e potrebbe essere anche per tutte le altre cose in realtà, quindi okay. non abbiate grosse speranze per le cose che tornano, perché come dice Filippo, parlando del Winner Taco, certo. poi torna, finalmente lo mangi dopo anni e ti rendi conto che è mediocre. Ma non è che stava parlando della Moratti? Ma io... Bravo Filippo, io sono d'accordo sì, con te. Sì, beh, io... mezzo sì. Era pure piccolo, posso dire? Sì, io me lo ricordavo molto più grande. Sì, è vero. Io un po' soffro di nostalgia, o come avrete potuto capire, quindi tutto quello che, non so, ci sono alcune cose, tipo il Winner Taco, che io quando lo mangio, cioè proprio faccio un morso e mi trasporto nel passato. All'oratorio dell'Olmina a pagarlo con le lire, con i codini. Che tata, bello. Detto questo, volevamo cercare un ospite per questa puntata. Lo volevamo e ci siamo dette, cavolo, stiamo parlando di cose che non vorrebbero che finissero mai. Esatto. Cose che vorremmo che finissero subito, ma prima di passare all'odio, cerchiamo di portare un po' di amore. Tanto amore. Chiesti, cavolo, ci saranno delle petizioni importanti in questo momento per permettere la non chiusura, per lottare contro la chiusura di luoghi, spazi, cose, persone. Ed è così stato. Abbiamo scelto quella che per noi aveva un, come dire, un non so che di un fuori valore, dal comune. Un valore, un senso. Esatto, e quindi stasera vi presentiamo Vincenzo Sparagna, esatto. Che è un editore, giornalista, scrittore, disegnatore italiano, ma soprattutto il direttore responsabile della rivista Frigidaire. Che per chi non la conoscesse ha fatto un po', cioè è un po' la storia in Italia delle riviste indipendenti o comunque delle riviste in generale. Era una rivista molto fuori dal comune. Sì, diciamo dire. Nata dedicata ai fumetti, ma che andava anche oltre, quindi sì. Era fumetti, satira, inchieste giornalistiche, musica e insomma, dopo aver portato tutto ciò in Italia, Sparagna nel 2005 esatto. Da un progetto originario del 1988 con il vecchio mattacchione di Andrea Pazienza, che spero che ricordiate tutti, ha fondato e aperto la Repubblica di Frigolandia. Che è una storia pazzesca, non so se avete visto la Repubblica delle Rose, non c'entra niente, però è una storia che ha dell'assurdo, perché appunto... vincono un bando pubblico, aprono questo posto che oggi è un posto tipo un archivio pazzesco di grafica, fumetti e un sacco di cose estremamente interessanti, e tutto funziona a fila liscio fino a pochi mesi fa, quando poi dopo Vincenzo ci racconterà, succede un fatto, una questione che lo trova appunto... un po' in difficoltà. Sì, discussioni con la purtroppo con le istituzioni. Adesso dopo il pezzo ci racconterà direttamente lui. Nel frattempo, se anche voi conoscete qualcuno che sta per chiudere ma magari ha delle petizioni, fatecelo sapere, ci fa piacere anche dare voce a tutti. Il supporto. Quindi, prima di inaugurare questa piccola sezione cose che non vorremmo che chiudessero assolutamente, abbiamo un bel pezzo che si chiama Reborn. Mamma mia, che pezzo pazzesco. E lo mettiamo e ci sentiamo subito dopo Reborn con Vincenzo. Kanye West e Kid Cudi, Reborn. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. Do you catch me out? Y'all done specially invited guests me out. Y'all been telling jokes that's gonna stress me out. Soon as I walk in, I'm like, let's be out. I was off the chain, I was often drained, I was off the meds, I was called insane. What an awesome thing, engulfed the shame. I want all the rain, I want all the pain, I want all the smoke, I want all the blame. Cardio, audio, let me jog your brain. Caught in the Audi home, we was all detained. All of you Mario, it's all a game. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. I'm so reborn. On me, Lord, I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. I had my issues, ain't that much I could do. Peace is something that starts with me. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. I'm so reborn. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Ain't no stress on me, Lord. I'm moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Bel pezzo. Ok, eccoci, bel pezzo. Ah, bel pezzo, scusate, stavo parlando io, non ero ancora in talk. Doveva succedere prima o poi. Sì, bel pezzo, bel pezzo. Bel pezzo, anche pezzo del Sunday Service, quindi un giorno ne parleremo. Kanye, sapete che Kanye West ha il suo... la sua messa che ogni tanto fa della sua tipo religione, quando non si dimentica di prendere le pastiglie. Esatto, ogni tanto cantano anche questa canzone. Ma chiuso il capitolo canzone, che comunque spero che vi sia piaciuta e spero che intanto che state mangiando la vostra zuppa abbiate canticchiato. Vi avevamo promesso l'ospite ed eccolo qui con noi. Buonasera Vincenzo. Buonasera a voi a tutti. Buonasera. Allora, punto uno, prima cosa da dire, grazie mille per la disponibilità, grazie mille per averci regalato questo 5, 10, 15 minuti del suo preziosissimo tempo. No, grazie a voi, per carità. Vabbè, allora, abbiamo fatto una piccolissima introduzione su di te, però ti chiederei, per chi non ti dovesse conoscere, poi dopo li andiamo a prendere uno a uno e li sgridiamo, chi non ti conosce, comunque, se ti puoi fare una piccola introduzione su di te, che nessuno meglio di te può raccontare appunto quello che hai fatto, quello che avete fatto e un po' la tua storia, insomma, raccontaci un po' di te per arrivare poi alla notizia clou degli ultimi mesi, ma con calma. Beh, insomma, oddio, raccontare la mia storia non ci metteremmo ore, ma insomma, naturalmente, come qualsiasi storia, peraltro. Ma la nostra storia, diciamo, partiamo dal fatto che nel 1980, insieme a Stefano Tamburini, Andrea Pazienza, Scozzari ed altri, ho fondato questa rivista che si chiama Frigidaire, una rivista che si proponeva e si propone tuttora, insomma, comunque c'aveva un programma di grande ambizione, se vogliamo, di grande respiro, di esplorare il mondo senza nessun tipo di barriera né ideologica e neppure stilistica, insomma, mettendo insieme, se vogliamo, l'osservazione, la cronaca e anche la fantasia, la cronaca e la fiction, quindi il fumetto, il racconto, la fotografia. Frigidaire è stata un'impresa complessa, insomma, in vari campi. Certo. E naturalmente si è posta anche da subito come una sorta di sfida alle cose, alle convenzioni, se vogliamo, del mondo, quindi in certo senso è stata anche una rivista per alcuni versi scandalosa, diciamo. Beh, sì, la satira non viene sempre presa bene, diciamo. Sì, sì. E vabbè, naturalmente io sono stato bersagliato da alcune centinaia di denunce, insomma, ho superato vari processi, in generale risultando peraltro innocente, alla fine cioè assolto praticamente sempre, ma comunque bersagliato di denunce varie. Fanno curriculum avuto... comunque, eh? Sì, fanno curriculum, mi diverto questa cosa. Dunque, no, abbiamo fatto alcune imprese anche rilevanti, insomma, nell'83 andammo a distribuire una falsa edizione del quotidiano dell'Armata Rossa ai soldati sovietici che occupavano l'Afghanistan. Nel 90 abbiamo inventato un giornale che si chiamava Il Lunedì della Repubblica, quando la Repubblica non usciva il lunedì, e poi la Repubblica, dopo che questo giornale aveva chiuso, ha comprato la testata e ha ripreso e ha cominciato a uscire di lunedì. All'inizio degli anni del 2000 era chiuso il giornale storico della sinistra, che era l'Unità, come si sa, giornale fondato da Antonio Gramsci nel 1924, e in questa chiusura si preparava una riapertura miliardaria, peraltro, nuovamente del giornale, ma che la cui direzione sarebbe stata affidata ad Antonio Padellaro. Ora, con tutto il rispetto per Antonio Padellaro, a noi ci è sembrato che passare da Antonio Gramsci a Antonio Padellaro era veramente un disastro, per cui abbiamo inventato un giornale che si chiamava La Piccola Unità, in cui io mi firmavo Vincenzino Gramsci, come se fossi stato il nipote di Gramsci, e parlavo di questo giornale fondato da mio nonno. Insomma, lo slogan era Avanti piccoli alla riscossa. Quindi immagino lo scandalo per questa cosa qua. Sì, no, naturalmente anche quello ha suscitato un po' di reazioni. Poi finalmente l'Unità, che veramente avevano investito 60 miliardi, noi non avevamo una lira ovviamente come sempre, ma questi avevano investito 60 miliardi per rilanciare, di lire, per rilanciare il giornale, insomma ci hanno fatto chiudere. Comunque Frigidaire è sempre continuata. E insomma, veniamo all'ultimo ciclo, che poi ormai dura da 15 anni. Nel 2005 abbiamo trovato, per puro caso peraltro, un luogo che era abbandonato, una ex colonia di balilla fascisti in origine, inaugurata nel 1936 da Benito Mussolini, ormai abbandonata da molti anni, dopo essere passata per un po' di tempo, era stata scuola elementare di un borgo. E ormai era chiuso, insomma c'era un parco, questi edifici erano vuoti, c'era un bando pubblico che era andato deserto varie volte, e insomma abbiamo pensato di affittarla, e così è nato, fondato insieme ad altri naturalmente, la Repubblica di Frigolandia, cioè la terra di Frigidaire. Certo. Un luogo, diciamo così, pensato, la terra di un soggetto fantastico, se vogliamo, e soprattutto di un soggetto multiplo. Una repubblica, perché in fondo nella repubblica ciascuno può essere se stesso, non deve obbedire a un principio unico, si può essere anche di idee diverse, si possono inseguire sogni differenti. La repubblica è per avere una struttura il più possibile aperta, e qui abbiamo creato questo museo dell'arte mai vista, era l'arte mai vista era una cosa che avevamo inventato Andrea Pazienza ed io nell'85, insomma, un po' intorno ai miei disegni, un po' intorno ai disegni in generale, alle immagini pubblicate da Frigidaire. Quindi abbiamo fatto questo museo dell'arte mai vista, organizzato degli spazi anche di accoglienza, perché ci sono delle stanze dove possono essere ospitate le persone, quindi qui abbiamo avuto l'occasione di fare seminari, incontri, insomma di ritrovare, l'idea era quella di ritrovare oltre quello che è tutta la comunicazione contemporanea che naturalmente avviene soprattutto sulle reti telematiche, diciamo, anche telepatiche se vogliamo, soprattutto sì, telematiche, soprattutto. Diciamo di ritrovare anche il gusto dell'incontro tra le persone, cioè di avere delle occasioni in cui si poteva nuovamente innescare quello che poi è alla radice di qualsiasi vera invenzione, che è, diciamo, lo scontro, il rimbalzo, diciamo, quella sorta di atteggiamento di disponibilità ad ascoltare l'altro, no? Spesso le riunioni più interessanti, da cui vengono le idee più belle, sono quelle in cui uno dice una cosa, un altro dice ah che stupidaggine, ma invece secondo me, quell'altro no, ma secondo me, insomma, in questo scontro, il confronto sì, esatto. Il confronto produce sempre delle cose in fondo più intelligenti, se vogliamo, più strane o più brillanti, quindi ritrovare questo gusto dell'invenzione. Naturalmente, come si può capire, siccome Frigidaire è nata nel 1980, all'epoca ero un giovane direttore, diciamo così, adesso sono un nonno direttore, perché in realtà la gran parte dei collaboratori adesso ha tra i 20 e al massimo i 40-45 anni, quindi molti anni meno di me, molti sono nati dopo l'uscita del primo numero di Frigidaire, alcuni sono addirittura nati alla fine degli anni 90, insomma, quindi certo. Stiamo parlando di una generazione, di generazioni diverse che si sono succedute in questa avventura. E Frigolandi è stata in fondo la molla principale in questi ultimi 15 anni per incontrare tantissimi giovani, ragazze, studentesse, studenti, artisti, fotografi, musicisti, videomaker, non so, tutti quelli che oggi operano sui differenti campi dell'invenzione, dell'arte mai vista, nel senso dell'arte nella sua infinita pluralità di espressione. Nonostante il paesino Giano dell'Umbria sia molto piccolo, immagino. Sì, no, il paesino di Giano, neanche io c'ero mai stato, neanche che esisteva veramente, prima di capitarci. Certo. È un piccolo paesino, una volta era un borgo, poi il borgo è stato praticamente abbandonato, ci sono delle frazioni, ma tutta la popolazione di questo comune non riesce a raggiungere i 3.000 abitanti. Ah, quindi è molto molto molto piccolo, sì, e la cosa pazzesca forse appunto che in un borgo così piccolo, che pochissime persone conoscono, certo, si crei, cioè, un'intensità e una scintilla così forte come avete fatto appunto nascere voi. Sì, e infatti poi qui sono venute migliaia e migliaia di persone, si capisce, nel corso degli anni, sia per vedere il museo, sia per curiosità, tantissimi ovviamente per partecipare. Abbiamo fatto anche un sacco di iniziative qui, oltre che di lavoro, diciamo, per rimettere in sesto tutto questo complesso di edifici, il parco, eccetera. Un grande lavoro anche tutto basato sul volontariato, perché poi per le ragioni che immagino voi possiate immaginare, immaginate, siamo partiti senza una lira e senza una lira ci troviamo. Sì, beh, è un grande classico delle idee bellissime. Sì. Ecco appunto, io adesso fortunatamente da qualche anno ho un reddito fisso perché ho la mia pensione sociale di 600 euro. E viva la pensione. Sì, è il mio primo reddito fisso in tanti anni, 50 anni di lavoro, avendo cominciato da ragazzo. Ma poi che cosa vi è successo? Niente. Come mai siamo arrivati a dover fare una petizione online per salvarvi? Sì, certo, guarda, il problema è questo, che un po' il comune è naturalmente abitato in gran parte da anziani, questi, devo dire, i giovani sono pochissimi, noi abbiamo anche tanti amici nel comune, però il posto non ha capito e continua a non capire, diciamo così, questo piccolo nucleo di popolazione ci vede come una specie di corpo estraneo, questi sedicenti artisti, chissà chi sono, chissà che pensano, chissà cosa fanno, questo poi è la cosa più divertente. Chi ci viene a visitare naturalmente si rende conto di tutto, ma insomma buona parte della popolazione ci vede come gli stranieri, perché non siamo di Giano, no? Perché siamo stranieri. Quello, sì. Qui sono stranieri anche quelli che vengono da Foligno, da Spoleto, da Roma, da Firenze, sì, da Milano, dalla Calabria. Da Milano figurarsi. Cioè, siamo... poi, no, ora, ma figuriamoci, poi ora col Covid, figuriamoci davvero. Sì, no, col Covid lasciamo andare. No, ma insomma nel senso che c'è questa sorta di resistenza locale che purtroppo le amministrazioni comunali qui, sin dalla prima che, con cui abbiamo firmato il contratto, che abbiamo regolato, perché noi paghiamo per stare qui, naturalmente abbiamo un canone annuo e paghiamo tutte le spese, costa alcune decine di migliaia di euro all'anno, ma insomma le amministrazioni comunali, o perché c'è stato un equivoco dall'inizio, cioè non hanno capito che noi non è che venivamo nel paese per fare un circolo del paese, noi abbiamo un punto di vista, da sempre abbiamo conservato un punto di vista cosmopolita, cioè stiamo a Giano dell'Umbria come potremmo stare a Milano, a Parigi, a New York, certo, sì, sì, o non so, a Pechino, insomma, ma insomma nel senso in qualsiasi posto del mondo oggi noi possiamo osservare il pianeta intero, un po' perché i mezzi di comunicazione ce lo consentono, un po' perché io credo che non si possa capire nulla del mondo contemporaneo se non vedendolo nella sua totalità, cioè una volta, tanti anni fa ormai, il mondo poteva anche essere diviso in zone, cioè all'epoca dell'Impero Romano non avevano idea di quello che succedeva in Cina, noi oggi sappiamo anche quello che succede nell'ultima foresta della Repubblica del Congo, capito? Le malattie che una volta mettevano migliaia di anni a trasferirsi da un luogo all'altro si trasferiscono in poche ore in aereo, i virus, sì, eccetera. Ne sappiamo, cioè, viviamo in un mondo, ne sappiamo qualcosa, cioè, viviamo in un mondo totalmente globalizzato, quindi abbiamo una visione anche in questo fare arte nostra, c'è sempre un riferirsi a un pubblico che idealmente siamo, è planetario, diciamo. Certo. Questa cosa viene capita con molta fatica, insomma comunque le amministrazioni locali hanno un punto di vista loro, a volte anche, non voglio dire, ma insomma diciamo molto, un po' retro, Beh, sì, no? Non solo culturalmente, poi c'è purtroppo l'Italia è un paese che ormai vive anche una specie di nuovo feudalesimo, sì, nel senso che questa esaltazione delle autorità locali ha finito per creare tanti piccoli centri di potere in cui il piccolo comune si comporta come un feudo medievale, capito? Certo. Loro controllano questo piccolo territorio, il comune vicino fa i fatti suoi, qui fanno i fatti loro. I fatti consistono purtroppo spesso nello speculare sul denaro pubblico per non fare nulla, quindi farsi dare dei finanziamenti e poi non farne nulla. E insomma, ultimamente in piena emergenza coronavirus, l'ultimo comune, l'ultima giunta, che poi è diretta da un giovane avvocato della Lega, leghista, insomma, quindi diciamo l'accentuazione, siamo passati da prima gli italiani, che già è una sciocchezza in sé, a prima i gianesi addirittura. Oh, beh, sì, bello. Quasi da t-shirt. Sì, sì, sì, tra un po' sarà prima. Ma sì, fanno la guerra nel quartiere di San Gaspare, non so, quello di Sant'Agostino, per dire. Vabbè. Cioè, i Guelfi di Bellico erano lungimiranti a confronto. Cioè, in qualche modo. Prima gli italiani, figurati, è già uno scenario, no, sì, almeno nazionale, no, prima i gianesi. Ecco, prima i gianesi. Che non siano artisti, mi raccomando. No, per carità. Insomma, sono abituati all'idea che la cultura poi in fondo sia la sagra degli gnocchi, ecco, per dirlo, certo, così. E qua in Italia la sagra va. Sì. La sagra va. Ma poi, per carità, le sagre vanno benissimo, ma se uno esaurisce qualunque cosa nell'enogastronomia, vabbè, insomma, povera Italia, insomma. Esatto, sì, e proprio, guarda, abbiamo dedicato anche un piccolo sfogo più tardi su non ne possiamo più del food, del, esatto, cibo, ci siamo tutti rotti di, solo di mangiare, certo, basta. Sì. Ma infatti, assolutamente, noi peraltro facciamo delle buonissime mangiate, se venite a trovarci. Assolutamente. Guarda, appena si può, noi veniamo. Ma cosa possiamo fare, Vincenzo, per salvarvi o quantomeno supportarvi? Guarda, noi adesso, naturalmente, dopo questa ordinanza di sgombero, perché il comune non, non è potuto andare a farci causa perché non c'è nessun motivo, non c'è nulla da dire sul contratto. Perché ricordiamo che voi comunque state continuando a pagare il canone, cioè non c'è nessuna motivazione. No, non c'è nessuna motivazione. Allora, non avendo motivazioni, hanno provato questa volta, diciamo, ci avevano fatto una causa anni fa, che avevano perso, vabbè, pagando anche le spese. Questa volta invece hanno provato con l'ordinanza. L'ordinanza è un atto amministrativo e loro, appellandosi a una direttiva europea che riguardava le concessioni balneari, contestano, cercano di invalidare praticamente il contratto che abbiamo. Ecco. Balneari in Umbria? Apparentati a una concessione balneare, è vero che ci siamo dichiarati prima Repubblica Marinara di Montagna, però forse per quello hanno detto anche loro metteranno gli ombrelloni. Esatto. Insomma, vabbè, hanno fatto l'ordinanza, noi ci siamo opposti ricorrendo al TAR, poi il Covid ha spostato tutti i termini in avanti perché altrimenti dovevamo sgomberare entro maggio, figurate. Invece naturalmente l'emergenza ha portato tutto in avanti e quindi tra un po' di tempo dovremo fare, poi non solo abbiamo presentato il ricorso, ma dovremo fare una richiesta di udienza al TAR e il TAR deciderà. Nel frattempo, prima abbiamo lanciato questa petizione appello al Ministero dei Beni Culturali su change.org che continua a raccogliere firme, ma non so, stiamo più o meno a 18.000, poco meno. Domani porteremo anche i nostri ascoltatori. Sì, assolutamente, perché più cresce comunque sempre un senso ce l'ha. Se ne saranno almeno 7 in più da domani. Ah, bene, ottimo. Poi niente, abbiamo fatto anche un appello attraverso degli intellettuali che hanno fatto una lettera aperta al ministro Franceschini. Comunque finora, devo dire, dai quei palazzi altissimi e irraggiungibili come il castello di Kafka in cui abitano i ministri, non avviene nessuna risposta. Quindi quello che si può fare è tentare di insistere perché almeno rispondano, perché se ci fosse un qualche tipo di riconoscimento di quello che poi è, cioè non è che devono inventare nulla, né ci devono dare soldi o cose del genere, devono semplicemente riconoscere che questo è un museo, un archivio, una biblioteca, certo, un luogo in cui si lavora e tra l'altro si scrivono anche tante tesi di laurea, cioè per volere vedere un lato così scolastico, certo, più proprio della cosa, ci sono tante tesi di laurea, ragazzi che sono venuti qua, abbiamo un ottimo rapporto con l'università di Yale. Leggevamo di fatti che gli anni passati sono venuti a studiare. Per il discorso potremmo essere a New York, potremmo essere a Tokyo. Ecco, no, ma appunto, infatti siamo poi di fatto, no, perché veramente tante cose nostre sono state tradotte in tutto il mondo, io ho delle edizioni, non so, di Rank Xerox in giapponese oppure pubblicate in Africa o in Brasile, non so. Quindi voglio dire, alcune cose sono state tradotte veramente in milioni e milioni di copie in tutto il mondo, sia quindi, di reportage che di fumetti. Certo. E quindi sì, c'è una dimensione così cosmopolita, abbiamo dei rapporti con l'università appunto di Yale, ma anche l'università dell'Indiana, insomma tanti luoghi che sono venuti anche a vederli, a provarci, insomma. Però questa cosa in Italia è difficile che il Ministero dei Beni Culturali si muova. Okay. Noi speriamo di avere una qualche protezione da questo ministero prima che arrivi la sentenza del TAR. Assolutamente, sia perché buona o cattiva che sia, nel senso. Ma sì, anche perché il TAR potrebbe decidere a nostro favore o contro. Al momento gli avvocati dicono che stiamo a 50 e 50 di possibilità. Se vi dico la verità, l'ascolto, quindi mi raccomando, abbiamo bisogno di voi. Assolutamente. Attivatevi. Vincenzo, noi ti ringraziamo, purtroppo ti dobbiamo salutare, però ti ringraziamo tantissimo. Speriamo di venirvi a trovare presto. Sulla zona del cibo ci hai comunque conquistati anche con quello, nonostante non ne possiamo più, fa ancora gola. Mi raccomando, tenete duro e noi ci proviamo sicuramente. Sì. Noi siamo dalla vostra e cerchiamo di salvare quest'arte mai vista. Sì. grazie mille, Vincenzo. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Grazie mille Vincenzo, mi raccomando, intanto mettiamo il prossimo pezzo, voi andate a cercare su change.org Frigolandia e potete firmare la petizione e nel frattempo chiamate quel vostro amico che lavora al Ministero dei Beni Culturali e fate qualcosa. Zio, vai a Giano nell'Umbria. Muoviti! Ci salvi, starte mai vista o no? Assolutamente. E via col prossimo pezzo. Vi lasciamo con Iodio dei Blu Vertigo. Parlare d'amore, si deve sempre comunque far nascere il sole, è necessario far credere di fare del bene, è necessario alle feste donare le rose. Beh, io onestamente provo anche odio, la mia vicina che reclama, odio per il frastuono che procuro, odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duro, puro odio, quando sono esasperato, odio, e non mi sento esagerato, odio. Sinceramente sono fiero, odio, forse ora un po' sincero, odio, è un discomodo parlarne, odio, poi sembra di essere gli stronzi, odio, è veramente un paradosso, odio, forse meglio lascia stare, odio, basini le sue ansie, odio, e provo tutti i sentimenti, odio, oltre ad amare tollerare, odio, quando mi portano ad odiare. Di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore, è necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare, bisogna sempre tentare di farsi accettare, si deve sempre scrivere solo testi d'amore, è necessario ogni volta mentire al nostro cuore, non sarebbe meglio liberarsi e confessare. Io sinceramente provo anche odio, la mia vicina che reclama, odio, per il frastuono che procuro, odio, e questa è una canzone sull'odio, è un sentimento umano e duraturo, odio, quando sono esasperato, odio, e non mi sento esagerato, odio, sinceramente sono fiero, odio, forse è un po' sincero, odio, e adesso non a parlarne, odio, poi sembra di essere gli stronzi, odio, è veramente un paradosso, odio, forse è meglio lasciar stare, odio, ma signore sue ansie, odio, e provo tutti i sentimenti, odio, oltre ad amare tornerai, odio, quando mi portano ad odiare. Wow. Eccoci, eccoci, che pezzone. Siamo, allora, questa puntata sta viaggiando alla grande, intanto credo che i nostri amici che alle 8 si sono messi a fare la zuppa, mi sa che l'hanno finita. L'hanno anche digerita, direi. Digerita, adesso sono lì, con la loro, vi immagino, allora questo è il mio immaginario. Vai Marzi, raccontacelo. Mi immagino sul divano con Radio Zam, con Fuori dal Comune accesa. Con il vostro, la vostra Camo Bonomelli lì, tutti, e la copertina. La copertina che Tati. Dice, che bello, vorrei tanto andare a Giano nell'Umbria. Anche noi. Organizzeremo un tour. Domani vi mettiamo i link così potete andare a supportare questa causa, sì, che ci sembra la causa del momento. Beh, sicuramente la più fantasiosa, sì, che difende la nostra fantasia, per cui è una cosa molto bella. Comunque abbiamo sentito Io odio di Blu Vertigo, pezzo del 1995. Vi segnalo che abbiamo anche degli ascolti non solo in tutta Italia, ma abbiamo anche degli ascolti internazionali. Mamma quest'ora. Mia. Wow, wow, yes. Wow, wow. Mamma mia, Fuori dal Comune goes international. Yeah. Nel frattempo posso dire una cosa? Ma puoi dirla. Raga, io ero emozionato quando parlava Vincenzo. te, sì. Anche io ero tutta qua, tutta sognante vicino alla mia stufa. È stato bellissimo. È stato bello, è stato bello. Un pezzo di storia proprio. Grazie mille, è stato strabello, spero sia piaciuto moltissimo anche a voi. Sì, allora adesso... Andiamo dritti. Esatto, cambiamo un po'. Morgan ci ha aperto questa fase dell'odio. Esatto. Che noi vogliamo abbracciare. Quindi vi avevamo promesso che vi avremmo raccontato tutte le cose che vorremmo che finissero subito. E quindi immediatamente. Vai Marzi, raccontaci la tua. Allora, per me basta con il Grande Fratello. Mo basta veramente. Basta Grande Fratello, per me rotto. Basta, è stato bello finché è durato. A me alcune edizioni sono pure piaciute. Ma sì. Quella con la Daria Bignardi la ricordiamo tutti. Credo che tanti di noi si ricordino tipo tutti i concorrenti. Salvo Salvo Maria Antonietta. Grandi, sì. Però il tema è Grande Fratello e in realtà anche un po' tutti i reality, perché abbiamo pensato che di base il reality oggi non ce l'hai già in mano. Senso, esatto, perché viviamo accollati nelle vite degli altri nell'Instagram, esatto, noi, no? Nell'Instagram, o sui social in generale. Noi viviamo già la vita degli altri. Non abbiamo tanto bisogno di vedere Tommaso Zorzi, no. Che si ma neanche Signorini che ce lo racconta, posso dire? No. Comunque basta. Lo share dice un'altra cosa, niente. E quindi noi succhiamo. Però noi diciamo, noi vorremmo dire, raga, no. basta Grande Fratello. E basta un certo tipo di TV, basta. Next. Io dico basta al pop che fa il giovane. Mamma cioè, basta. Mia. Max Pezzali, Nannini, Tatangelo, basta. Avete veramente rotto. Sì, cioè avrete messo via un po' di soldi, immagino. Ma mettetevi, ma fate l'uncinetto, ma inventatevi un'altra passione, però... Io non ho più voglia di vedervi associati a ragazzini che... giustamente stanno vivendo il loro tempo, sì, anche musicale. Perché loro fanno un po' questa mossa qua, cioè loro s'aggrappano, esatto, tipo Cozza, s'aggrappano, no, Cozza, tipo cozza. Anche sì, anche Pidocchio, sì, vabbè, Cozza, vabbè, insomma, tutte le cose che si appiccicano, e loro si attaccano, dicono vabbè, faccio il pezzo con il ragazzo giovane, con il trapper, facciamo un nome a caso, tipo avevamo veramente bisogno del pezzo di Marco Mengoni e Fra Quintale, raga. No. Ti vogliamo bene, Fra. Fra, ti vogliamo bene. Ti abbiamo sempre Marco. Voluto bene, sì. Però... Ma avevamo davvero bisogno di questo pezzo. No, non ne avevamo assolutamente bisogno. Va bene. Niente, quindi io mi sono rotta il bip di questo. Next! E tu? E qua abbiamo discusso parecchio. Sì. E uno dei grandi temi che è venuto fuori è, raga, basta con l'ossessione da tricolore e la bandiera italiana. Basta sul Pirellone, sul Palazzo Unicredit, fuori dalle case, basta. Cioè, siamo basta. Tutti contenti di essere italiani, no? Io contentissima. Sì, ma va bene io così. Tranqui. Sì, io esatto, tranqui. Ma va bene così. Cioè, però l'ostentazione, forse un po' perché... Diciamo la vampata della politica di estrema destra che ha riportato un po' i simboli appunto del tricolore in quella veste un po' così, ce lo fa anche vedere in una maniera un po' negativa. Sì. Cioè, sì. Io ieri ho trovato in casa una bandiera dell'Italia e ho detto, boh, cosa faccio adesso, la butto? Devo buttarla. Okay, ma sono fascista, ma che cosa? Ma io posso tenerla in casa? È pericoloso, Cioè, io trovo anche sbagliato, anzi, scusa Giorgia, se ci stai sentendo, dacci indietro il tricolore, non è tuo, questa retorica per il quale... Sì. Appropriazione culturale, forse. Sì. Per il quale la destra italiana si è presa il tricolore, ma... Cioè, ma raga, non anche l'ho no. tanto capita. Cioè, ah. A me piaceva anche abbastanza la bandiera italiana. Ma posso dire, sono dei bei colori, cioè, sì, sì, ma, sì, so. Collo, ma sì, mia, ma fa... Quindi mia. Basta con questa roba qui. Io dico anche basta con la gente che dice basta ai social media e se la crede dice, oh raga, io non ci sono più su Instagram, io non ci sono più su... L'ho tolto, allora sei cool te. Dai, esatto. Allora sei cool perché l'hai tolto, va bene. Basta, cioè, è finito quel periodo là e come diceva giustamente la Marghe, è finito, è vero, anche il periodo di chi condivide, fa troppo show off sui social. Basta, ma inventatevi qualcosa, vogliamo, no? Dei contenuti di spessore. Fate qualcosa di diverso nella vostra vita. Non lo so, perché io mi sono rotta di vedere lo show off delle vostre vite fantastiche. Sì. Raccontatemi, non lo so... Come vi tagliate le unghie. Ad esempio, oppure... Non so, il vostro pensiero triste la mattina, sì. Non sì, me ne frega niente della vostra colazione stupenda e super instagrammabile. Abbiamo Linda Esteranelli che dice basta boomeroni su TikTok. Ovviamente giusto. È mia sorella. Ed è la sorella di Marzi. Giusto, giusto. E solo la sorella di Marzi poteva dire e boomeroni. Esatto, la sorella di Marzi non sapeva che una delle cose a cui noi diciamo basta è pure l'utilizzo della parola ok boomer, sì, boomer, oppure esatto, dall'altra parte giovani. Sì, la parola cioè, giovani non si può sentire più. Allora, io non sono d'accordo con smetterla con la parola boomer, però sono molto d'accordo di smetterla con la parola giovani. Sì, di smetterla con la parola giovani, anche se ogni tanto sono colpevole, però... Un consiglio a tutti quelli che ci stanno ascoltando: quando sentite qualcuno che dice cosa pensano i giovani, vuol dire che diffidate immediatamente. No, vuol dire, vuol dire che sono boomer, di cui tutto torna. Sì, diffidate immediatamente. Ok, poi di che cosa ci siamo rotti? Beh, dalla pandemia. Vabbè, la pandemia, neanche classic, a dirvelo, raga. Classic, basta. Scontato, però va detto. Usciamone tutti insieme. Al ma più basta. Ma basta. La finiamo? No, basta. Cioè, l'abbiamo dimostrate tutte che sappiamo sì, cucinare, che sappiamo fare la palestra, che sappiamo pensare a noi stessi, che basta, sappiamo migliorarci. Sì. Direi fare che dei basta, progetti paralleli in linea con la nostra vita, fare dei progetti paralleli non in linea con la nostra vita, fare un sacco di puzzle. Basta. Fare un programma radio, fare ad esempio. Un programma radio, raga, esatto. Campato sul nulla. Esatto. E poi l'abbiamo anticipato con Vincenzo. Basta food, basta soprattutto chef, basta. Più stelle hanno, più hanno rotto le palle. Basta MasterChef, raga, basta. Basta Bake Off, basta tutto questo. Fine sì, dining, basta sì, veramente. Anche perché lo sappiamo tutti che poi vi mangiate l'insalata con le mani e nessuno ci crede. O aprite la fesa di tacchino. Esatto, no, infatti, e ve la mangiate, raga, così. Basta. E poi per stare a fare... Tranne chi lo fa con... consenso, nel senso non per mostrare che sa fare questa cosa, ma perché effettivamente gli piace farlo, e lì ci sta, va bene, ok, però non riempiteci la vita delle vostre ricette. Posso no, dire che stavo parlando anche con la mia coinquilina, io dico basta alle pizze napoletane, roba buona, raga, buona, non me ne vogliate, buonissima, però io, cioè, sinceramente, ogni tanto mi voglio pure mangiare la pizza quella normale. La pizza normale è sì, quella delle pizzate elementari, sì, quella roba là. Quindi non tanto no? Le pizze napoletane, ma forse le pizze gourmet, quelle esagerate che sì, le paghi 14 sì, sì, euro. Quelle con dentro sopra anche tua zia sdraiata. Esatto, sì, che c'è sono sopra d'accordo. Il tipo il prosciutto di un posto che nessuno conosce, con un pistacchio di un posto che nessuno conosce, ah, con una crema. O il pomodorino, esatto, di San Marzano. Raga, e ma chi dico compagnia. No, ma basta. Ma basta, raga, basta, basta, basta. Cioè, che poi tra l'altro in tutti questi basta noi siamo estremamente parte di queste cose che le facciamo. Assolutamente colpevole. Io la prima che condivide foto di colazioni tutti i giorni. Io guardo il Grande Fratello. E fai le foto dei gattini. E faccio le foto dei gattini. Fede si ascolta Max Mezzali e Ketama. Sì, sì, e via. Bellissimo. Sarebbe un pezzo tra l'altro molto interessante. Ma mi sa che c'è esiste stato, Pezzali e Ketama. Non l'ho citato così a caso. Ok, va bene. E l'ultima grande cosa del basta, o forse sì, prima di lasciarvi con un basta generale, con basta noi forse anche. Esatto, anche basta questo momento sì, di basta, esatto, però diciamo basta a assolutamente essere tutti nello stesso posto, mamma basta mia, le zone cool, parliamo di Milano, ok? Cioè non è necessariamente obbligatorio essere nei posti cool di Milano, per dire, noi per dire siamo sempre magari spesso e volentieri in Porta Venezia perché o perché ci abitiamo sì, o perché siamo lì, ma anche perché ci piace essere un po' parte di questa bolla, però raga anche un po' rotto le palle questa cosa, troviamoci una volta a Maciacchini, troviamoci una volta a Piazzale Lotto, troviamoci una volta da un'altra parte in un bar che sicuramente sarà uguale al bar dove vai di solito. Se tu che stai comprando casa a Loreto o in sì, via Padova... Io l'ho comprata ma un po' più su in via Padova. Vedi, no, però molto in su in via sì, Padova, sì, raga. Certo. Era un tu generico, ma effettivamente sì, mi hai fatto appena venire in sì, mente che eri proprio tu. Sì. Strappa sto contratto, no? Però io sono contento, posso dirlo, di non fare parte del quartiere di Nolo. Quasi. No, quasi però. Raga, adesso quasi. Quando l'ho comprato io c'eravamo io e basta praticamente. No. Molto. Sai perché l'hai comprato lì? Perché c'è la gentrificazione. Perché c'è la gentrificazione. Altra cosa a cui diremo basta, ma in realtà l'ho comprata lì perché era uno dei pochi posti dove potevo permettere. Raga, siamo tutti vittime di tutti i nostri basta, infatti questa più che uno sfogo contro tutte queste cose, era uno sfogo contro noi stessi, facciamo sì. Cagare. Autoanalisi. E a dircelo è Ariana Grande. Ariana Grande con Thank You Next. Thought I'd end up with Shine, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. He was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. That's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Yeah, for that I say thank you. Next, next, thank you. Next, next, thank you. Next, I'm so fucking grateful. She grew from the drama. Only wanna do it once real bad. Gonna make that shit last. God forbid something happens. At least that song is a smash. Mamma mia, assolutamente non giustificato il mio overexcitement per questa canzone. Ma praticamente questa radio è un karaoke. Questa radio è un karaoke? Sì, sembrerebbe. Che segnale mi stai facendo, no, Mario? Scusate, era di abbassare la radio perché si sente. Ah, scusate. Sì, scusate, un piccolo momento tecnico di e rieccoci perché qua. Eravamo troppo casati. Ariana ci ha completamente storditi. Sì, esatto, la sua visione, lei che canta tutta vestita di rosa, me l'immagino. Sì, beh, ovviamente beh, lei ovvio, è sempre sì. Vestita esatto. Di rosa ed è sempre vestita di colori scintillanti. Ed è sempre perché... svestita forse. Sì, io me la immagino sempre con le orecchie da coniglio, ma non so. Anch'io ce l'ho questa immagine molto limpida in mente. Forse, vabbè, comunque. Vabbè, insomma. Comunque, niente. Thank you next. Ed eccoci alla vostra rubrica preferita, prima di salutarvi e dirvi buonanotte, buona serata e arrivederci. Buona continuazione. È la rubrica delle altre notizie della settimana. Eccoci. Allora, ve ne abbiamo selezionate, direi, quattro. Fondamentali. Fondamentali. Allora, questa settimana potete dare sfoggio di... Ah, aspetta, una cosa importantissima. ci siamo resi conto che facendo la puntata ogni 15 giorni le notizie non fanno tempo a rimanere, cioè nel senso avvengono e si chiudono, quindi magari sono cose che come dire, succedono in una settimana ma non riusciamo a raccontarvele tutte quante, quindi prendiamo proprio il meglio del meglio delle altre notizie, le altre, e sì, ve le proponiamo in questa maniera, ecco. Buona questa è una bella presentazione, sì, di questa sottorubrica. Così quando le persone vi avranno assillato abbastanza sulla crisi di governo e su i vaccini e su qualsiasi altra cosa, qualsiasi altra l'Inter cosa, che ha battuto la Juventus 2-0, esatto, arriviamo noi a dirvi che il 15 gennaio 2021 Wikipedia ha compiuto gli anni. Sì, Wikipedia auguri, compiuto 20 anni, ragazzi. 20 anni, giovanissima, auguri a Wikipedia, che ogni tanto è sempre anche lei sull'orlo della chiusura, ma noi non vorremmo mai, grazie. Io dono sempre, grazie Wikipedia di esistere. Ma voi avete mai fatto quelle cose simpatiche di cambiare delle notizie storiche mettendo voi o un vostro amico? Non ho mai cambiato io. No, perché io sono molto etica in questo. Ma scusami. No, non l'ho fatto io, non l'ho fatto. Ah, ho degli amici, cioè il cugino, un amico di mio cugino di terzo grado mi ha raccontato che aveva fatto questa butad. Sì. Niente. E la cosa molto divertente di Wikipedia è che abbiamo fatto una piccola ricerca per quanto riguarda le lingue su Wikipedia. Ma in realtà abbiamo appreso questa cosa da una delle newsletter che leggiamo, che è quella di Valerio Bassan e Lissi. Yes. E, se ci stai ascoltando, ciao. Non ciao. Credo, però. Nel ciao. Caso. Abbiamo copiato questo contenuto da te. Sì. E, sì, esatto. Quindi, tra le prime lingue più popolari su Wikipedia, l'italiano è all'ottavo posto, quindi niente male. E al primo posto c'è ovviamente l'inglese, in neanche quanto a dirvelo. Lingua che è più scritta al mondo. E poi voi direte il cinese, che ne so, lo invece spagnolo, no. Invece no, abbiamo lo svedese e il cebuano. Sì. Così, d'amblè. Svedano. Che è una lingua delle Filippine. Tu che sei stato nelle Filippine, l'hai sentito? Sì, non tanto bella, devo dire. Ah, c'è una grandissima chiesa di Scientology e un sacco di trans. Ok. Sai che combo alquanto interessante. Sì, ma sì, non sì. Croccante. Non vi diremo perché questa lingua ve la andrete a cercare su Wikipedia. Mica possiamo dirvi tutto noi. Esatto. Altro giro, altra corsa. Cringe. Cringe è stata inserita nel vocabolario. Dopo petaloso, e forse ce ne sono anche stati altri nel mentre. Sì. Il sito della Crusca ha dichiarato che cringe, che insomma vuol dire un po' imbarazzante, un po'. Peggio. Marzia è la nostra esperta degli inglesismi. Sì, cringe è tipo quel imbarazzo, però non è inteso in cui io mi trovo in una situazione di imbarazzo, è proprio una cosa, un contenuto imbarazzante. Sì, forse in italiano... L'imbarazzo dell'altro, cioè no, mi sta imbarazzando. Sì, non tipo di una persona, quanto proprio di un contenuto, di qualcosa detto, di un modo di comportarsi. Qualcuno dice una roba, tu dici, Madonna che cringe, voglio sparire. E bene. Quindi adesso quindi è anche italiano. Tranqui, raga, quindi tranqui. Dirlo, non quindi è più non l'inglesismo. Mi rompete le palle, se non grazie. Poi. Procida, capitale della cultura. 2022. Questa sì. È notizia freschissima, freschissima, raga. Di oggi. Negli scorsi giorni si è votato per la capitale della cultura del 2022. In gara c'era Volterra. Un sacco di città. Non mi ricordo più, però c'era Volterra Bari, me la ricordo anch'io. E Procida. Procida. Procida ha effettivamente vinto, quindi 2022 tutti a Procida, forse no, perché da che io mi ricordi, non so se qualcuno all'ascolto si ricorda anche la stessa cosa, però quest'estate che come sapete, insomma come vi ricorderete, c'è stato un turismo Italia verso Italia molto forte. Sì. L'isola di Procida è stata abbastanza presa all'assalto, soprattutto da gruppi, pare, da gruppi di minorenni che andavano in vacanze alla maturità, / vacanze altre, di a Procida. Fine scuola, sindaco disperato e non li voleva più, voleva perché chiudere l'isola. I ragazzi vomitavano ubriachi e insomma lui non li voleva più, poi c'era il Covid, era tutto così. E poi ha candidato la sua isola come capitale della cultura, così. E ha vinto. E ha vinto. Beh, insomma, bella questa roba di andare a Procida a vomitare e sapere di star vomitando, sì, nella capitale della cultura. Certo, bello. Fa cultura anche il vomito. Comunque, ve la dico lì: nel 2023 non ci si è già deciso, non si voterà niente. Bergamo, Brescia, capitali della cultura. Ah, nel 2023? Purette, sì, un po' per ovvi, certo, COVID, per okay, l'ondata, diciamo, per l'ondata che li ha riguardati. Ultima notizia. Di cui non sappiamo assolutamente niente. Ma è una notizia che vi cambierà la giornata, perché chi, come noi, è cresciuto negli anni 90, aveva davanti a sé un terrore, un'ansia terrificante, che era il buco nell'ozono. Mamma. Sì, siamo cresciuti con questa ansia delle nostre maestre, dei media, tutti quanti, tutti, probabilmente anche su MTV, che ci dicevano il buco dell'ozono, il buco dell'ozono. Ma che poi voi avete mai capito che cazzo Bip è il buco dell'ozono? Cioè, tecnicamente proprio bene bene bene. No, non ma benissimo. Non ci interessa, perché si è chiuso, ragazzi, si è chiuso il più grande buco dell'ozono, che era in Antartide. Antartide, esatto. Dopo, insomma, una stagione eccezionale, si è chiuso. Si è finalmente chiuso. Abbiamo risolto i nostri problemi con pare che avesse raggiunto una dimensione record tra agosto e settembre, e poi con l'inverno ha detto: ma sai che c'è? Io mi chiudo. Bene, ragazzi, questa è assolutamente la dimostrazione che noi siamo vittime del clickbait, siamo vittime della misinformazione. Probabilmente adesso prenderemo una denuncia per avervi detto questo. Continuate a fare la raccolta differenziata, a muovervi in bicicletta, sì, viva l'ambiente. No, ma non abbiamo detto che è finita la, cioè, non semplicemente no, abbiamo un pensierino. Era per dire, se c'è una cosa positiva del 2020 è che si è chiuso il buco dell'ozono, insomma. Poi continuate a fare ciò, i bravi, prendete la bici, come dice Marzi, fate la differenziata. Bene, siate che green. Siamo al 63% a Milano, raga. Bravi, sembra bravi. Tanto, ma siamo ancora molto lontani dall'arrivo. Siamo lontani dall'arrivo, ma come media nazionale è molto buono. Molto bravi, alto, bravo. Un autoapplauso a noi stessi, che tutte le mattine ci alziamo e dividiamo la carta, il cartone, la plastica, il vetro. Io non ho ancora capito benissimo tutte le cose, ma mi sto impegnando tanto. No, a me è arrivato, non so se a tutti voi, sì, il bigino. Il quadernetto dove lo butto. Sì. Che io ho amato, perché tutte le volte cercavo sul sito internet dove lo butto, dove buttare le cose. Certo. E amo adesso averne una versione cartacea, che poi andrà buttata nella carta, esatto, il prossimo anno. Un giorno però parleremo anche di rifiuti che si trovano per strada, poltrone, quadri. Ah, il mondo dell'ANSA. Esatto, ritiro ah, il magico mondo dell'ANSA. Bandiere dell'Italia. Bandiere trovata dell'Italia. Con scritto, cos'era? 25 aprile? Sì, molto triste, hanno buttato una bandiera il 25 aprile. Vabbè. Niente. Bene così. Bene. Siamo, ragazzi, alla fine, raga. Siamo alla fine, l'abbiamo tirato un po' lunghi, lunga. Io oggi lunghi. Vi immagino sempre distesi sul vostro divano. Ah no, a questo punto a letto, forse col pigiamino. Sì, sempre con la camo, vi immagino, magari un po' di cremina nella felpa. Che non è una tipa la camo. No, no. La cremina nella face. Eravamo io la camo, la Rebi. No, la camomilla, cremina, camomilla e adesso puntatina, serie. Io sì, vi immagino così, se io fossi un'ascoltatrice e non oste di Radio ZAM e di Fuori dal Comune, mi avrei fatto così, avrei impiegato così la mia serata. Quindi vi salutiamo. Grazie. Seguiteci mille. Seguiteci sull'Instagram, @ Fuori dal Comune stava preso. Perché effettivamente stava così preso. Ci vediamo tra due settimane. Sì, tra due settimane. Noi adesso vi auguriamo dei sogni un po' freak, un po' anche chic. E quindi vi lasciamo con un pezzo pazzesco, raga, che, per ballare, esatto, a fine serata. Che non vi farà rilassare, quindi tutto, anzi, l'effetto della camo si evaporerà. Legato a una bellissima storia di un locale chiuso, anche questo. Purtroppo sì. Lo studio 54. Perché noi le canzoni non le scegliamo a caso, ok? Non le sceglieremo mai a caso. Quindi immaginatevi, studio 54, butta fuori. Studio 54 era tipo il locale più figo di New York, no? Per si ballava, la disco music, ed era dove anche un po' è arrivato. Era dove succedevano pop, le cose nel le mondo, cose, praticamente. Esatto. Il gruppo arriva, questo gruppo appunto del pezzo che stiamo per mandare, arriva fuori dallo studio 54. i buttafuori non li fanno entrare, li rimbalzano perché vestiti troppo eccentrici, o comunque forse troppo erano anche un freak. Po' e forse un po' agitati. Erano i classici fricchettoni con il poncio, tipo, chi probabilmente. Sa, chi lo sa com'erano. Vabbè, il butta gli ha detto: ma zio, ma come cazzo ti zio, vai a casa. Ma tornati a casa che poi c'è la fila qua. Balzati dallo studio 50. Deve entrare Vieri, deve entrare un sacco di gente. Loro arrabbiatissimi, forse anche un po', diciamo, agitati, carichi dall'alcol o chissà che altro. Un po' di camo. Esatto, avevano preso un po' della camo della Marzi. Filano in studio direttamente dopo essere stati rimbalzati e incidono questo pezzo che è appunto Freak Out, Le Freak Se Chic. Ciao raga! Bacini! Baci! Shit.